Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Come sanno gli ascoltatori di Mr. Kilowatt, negli ultimi giorni ci siamo occupati di questa vicenda dell'Energy Catalyzer di Rossi e Focardi, che sembrerebbe riuscire a produrre ingenti quantitativi di energia sulla base di un qualche tipo di reazione nucleare a bassa temperatura. Uno scenario che è allo studio dall'89, quando si sentì parlare per la prima volta della cosiddetta fusione fredda, e che negli anni, se da un lato ha visto anche una sequenza di annunci a dir poco ottimistici e in qualche caso anche dei tentativi di frode, dall'altro ha visto all'opera, in modo magari un po' più discreto, vari gruppi di ricerca sparsi in giro per il mondo. Uno dei gruppi più attivi che ha operato su questo tema si trova all'ENEA, dove si è appunto continuato a lavorare sul sistema originale, quello dei primi esperimenti di Flashman e Pons, il sistema deuterio-palladio. Il palladio è un metallo raro, e il deuterio è una forma pesante dell'idrogeno. In linea con noi c'è Vittorio Violante, del Centro di Ricerca ENEA di Frascati, che è uno dei ricercatori più noti a livello internazionale per gli studi sulla fusione fredda. Buonasera Violante. Buonasera. Allora, premettiamo che noi non entriamo questa sera nella disputa Focardi, Rossi, funziona, non funziona, eccetera, eccetera. La prima domanda è questa. L'annuncio dell'89 di Flashman e Pons, Flashman all'epoca era un elettrochimico di fama mondiale, è passato alla storia come una delle più grandi bufale scientifiche. Però, le chiedo Violante, era proprio tutto da buttare, oppure lì, insomma, questi due scienziati aprirono un capitolo della storia, anche se nel peggiore dei modi e probabilmente danneggiando le ricerche successive? Diciamo che forse la storia non è iniziata nel modo migliore. Quello che posso asserire è che noi, nel corso di questi anni di studi che abbiamo condotto, abbiamo potuto verificare che questo effetto esiste, cioè esiste una generazione di potenza anomala nel sistema palladio-deuterio quando si superano certe concentrazioni di questo isotopo dell'idrogeno nel reticolo del metallo, quindi nel caso specifico del palladio. Insomma, qualunque cosa sia, un effetto c'è, e quindi c'è anche un buco di conoscenza da parte nostra, perché non sappiamo spiegarlo. Sicuramente esiste un fenomeno che merita di essere studiato senza ombra di dubbio. Dunque, voi avete lavorato per oltre 20 anni, o comunque più o meno per una ventina d'anni, su questo sistema, abbiamo detto, palladio-deuterio. Mi ha già detto che avete ottenuto risultati, avete osservato il fenomeno. Però, ecco, questa è la domanda cruciale. Avete compiuto delle osservazioni, degli esperimenti riproducibili anche da parte di altri gruppi di ricerca? Sì, qualche anno dopo l'annuncio di Flashman e Pons, ad opera di alcuni gruppi di ricerca, quindi il gruppo di ricerca dell'SRI International di Stanford e della IMRA Japan, si scoprì che questo effetto era un fenomeno a soglia, ossia era necessario raggiungere un certo livello di concentrazione di questo isotopo dell'idrogeno, il deuterio, nel palladio, affinché fosse possibile poi osservare l'effetto. Allora, sulla base di questa informazione, diciamo, io ho dedicato gran parte del mio lavoro per cercare non solo di capire per quali motivi talvolta il palladio assorbiva più idrogeno o deuterio e altre volte ne assorbiva di meno, pur avendo apparentemente le stesse caratteristiche, le stesse proprietà. Questo lavoro ci ha permesso di mettere a punto delle tecniche per produrre degli elettrodi di palladio dotati di una particolare metallurgia in grado di raggiungere quasi nel 100% dei casi il livello di concentrazione che viene considerato necessario per osservare questo effetto. Questo lavoro che abbiamo fatto quindi ci ha consentito di realizzare dei campioni che avevano una probabilità più elevata di altri campioni di far osservare questo effetto. E noi abbiamo messo i nostri campioni a disposizione anche di altri istituti, in particolare di alcuni istituti statunitensi, tra i quali l'SRI International della California, e anche loro hanno potuto osservare esattamente lo stesso comportamento nelle loro campagne sperimentali. Ok, quindi insomma c'è stata una buona riproducibilità quando avete messo a punto questi elettrodi in palladio. L'eccesso di potenza che si manifestava era macroscopico, era significativo o era una piccola percentuale? Beh, in alcuni casi abbiamo ottenuto eccessi di potenza ampiamente superiori al 100%. Senta, cosa rende così difficile studiare questo fenomeno? Guardi, quello che le posso dire è che piccole variazioni nello stato del materiale si riflettono in un comportamento molto molto diverso nella verifica sperimentale. Ecco, lei sta parlando per esempio di piccole impurità, parti su un milione, su 10 certo. milioni, no, di altri materiali annegati in questo blocchetto di palladio erano decisive, mi sta dicendo. Esatto. Mi pare di aver capito che un altro problema riguarda il fatto che siamo di fronte anche a una, come dire, a una complessità molto maggiore di quella che non si penserebbe, no? Cioè, queste reazioni avvengono sulla superficie degli elettrodi, dove succede di tutto. Tanto per darle un'idea della complessità, la regione di interfase, cioè quando noi passiamo dall'elettrolita alla... Insomma, sulla superficie, la zona di confine tra esatto. questo elettrodo e il resto. È una zona molto ristretta, uno spessore che è inferiore a quello di un capello, tanto per intenderci, e in questa regione noi passiamo da una zona dove c'è il liquido a un'altra regione dove c'è del gas che si produce, a un'altra regione dove abbiamo un sistema statistico di particelle cariche che per definizione può essere assimilato a un plasma, e poi all'elettrodo vero e proprio che è il nostro palladio, diciamo. Insomma, quindi, tutti i quattro stati della materia si trovano. Stati della materia in una regione strettissima. Questo le può dare un'idea della complessità del sistema e certo, del fenomeno. Certo, grazie, grazie Violante. Prego. In chiusura vi ricordo che sabato sera la trasmissione di Scienza di Radio 24 Mebius dedicherà ancora a questa vicenda un approfondimento. Noi invece ci risentiamo lunedì. Buon fine settimana.